per chiudere o comunque aggiungere un elemento di pessimismo. da un lato la cosa che anch'io nella mia breve esperienza di vita là in Palestina ho notato che sì, musulmani, ma fino a un certo punto, cioè l'alcol lo bevono, fumano durante il Ramadan pure, quindi, e io personalmente saluto questa cosa in maniera molto positiva come Marco. E quindi non è poi così vero che in un paese, diciamo, a maggioranza musulmana il fattore religioso sia un grosso problema. È il fattore, secondo me, invece, è il fattore della consapevolezza politica e della stanchezza. Perché è vero, c'è la birra Taib, ci sono tanti prodotti palestinesi, non tantissimi, però alcuni sì, che potrebbero essere scelti al posto di quegli israeliani, dal latte, all'hummus, appunto la birra. Ma di fatto è solo una minoranza che consuma il prodotto palestinese, perché quello israeliano costa meno, per esempio, non il vino, ma la birra sì. E io là ho frequentato palestinesi che compravano la birra israeliana perché costava di meno, la Taib effettivamente più buona, ma costava di più. Oppure il latte, ma tante altre cose che si possono avere sia del proprio della terra, prodotti a terra palestinese, ma non c'è una grande attenzione, anche se c'è una realtà di commercio equo solidario. Ho fatto uno stage presso il commercio equo a Ramallah e c'è, e quest'anno soprattutto la giornata della terra è stata improntata proprio al consumo critico internamente alla Cisgiordania, ai territori occupati, non solo a livello internazionale, campagne di boicottaggio. C'è ancora però molto da fare per la consapevolezza dell'importanza anche politica di scegliere un prodotto, anche di bersi qualche cosa o mangiare l'hummus. C'è l'hummus che è, penso che è quello che conosciate tutti, è praticamente il piatto tradizionale palestinese, lo fanno anche gli israeliani, lo rivendicano a sé, o le falafel, e i palestinesi stessi al supermercato non fanno troppa attenzione da dove viene questo. Qualcuno sì, ma correggetemi se sbaglio, io ho meno esperienza vissuta là, però questo è un grande scoglio che vedo soprattutto nelle giovani generazioni, vuoi per stanchezza, vuoi perché è venuto meno forse questo grande impegno, impeto ideologico, vuoi per tante ragioni, però ecco, su questo c'è ancora veramente tanto da fare, non basta avere anche il prodotto palestinese, bene che ci sia, per carità, anzi, però ecco. Devo chiudere, io lascio aperto alle domande, se no chiudiamo, ditemi voi. Allora, ok, ufficialmente chiuso il dibattito, io ringrazio tutte e tutti i partecipanti. Posso fare, ecco, semplicemente in chiusura, di solito lo facciamo, quindi anche stavolta, perché no, un grande e caloroso invito a visitare questa terra, cioè... Non, chiaramente credo che qui ci sia appunto un pubblico molto accorto e sensibile più che in altre circostanze, però comunque sia non fa male, non facciamoci intimorire, non abbiamo paura, chi frequenta il Loncavallo senz'altro non ha paura, quindi non abbiamo paura neanche di toccare con mano, quindi di toccare con mano, di prendere, di partire, di visitare Kremisan, di andare a trovare Andrea, di andare in cantina, ma non solo, di camminare accanto a un pezzetto di muro, di vederlo davvero, non solo ecco, nei colori di una carta geografica, perché quello che fa veramente la differenza è l'esperienza personale. Certo, si può fare qualcosa con le parole, con i racconti, con le fotografie, con le immagini, sono tutti strumenti potenti, però comunque sia, ecco, da parte nostra vorremmo davvero che il vino fosse anche proprio un veicolo forte di contatto e di comunicazione tra i popoli. Ora, questi due popoli ancora probabilmente hanno molta strada da fare, ma questo non toglie che anche noi siamo parte in causa, siamo parte in gioco, anche noi possiamo avvicinarci direttamente, quindi saperne di più è sicuramente un passo in avanti anche per poi agire in maniera consapevole, in maniera costruttiva. Quindi davvero, se qualcuno ecco, avesse qualche pensiero, qualche voglia, qualche idea di partire, fatecelo sapere, oppure partite con chi volete, come volete, quando volete, ma sentite la Palestina un po' terra vostra, perché lo è.